Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Vorrei dire che l'Italia farà da sola, l'Italia farà quello che serve in termini di migrazione, in termini di lavoro sui paesi africani d'origine, e mi dispiace perché questa è un'occasione persa per l'Europa. Come avete sentito, care ascoltatrici, cari ascoltatori, iniziamo subito la settimana con un Renzi molto amareggiato al vertice sull'immigrazione al Palazzo di Vetro dell'ONU a New York, amareggiato come lo era anche, vi ricordate, la scorsa settimana al vertice europeo di Bratislava, perché dice, insomma, sulla questione immigrazione qui non si conclude niente, tante parole da parte dell'Unione Europea, ma poi alla fine ci dobbiamo arrangiare da soli. Effettivamente anche qui, effetto note, quante volte avete sentito parlare di questi vertici, vertici su vertici, incontri, eccetera, eccetera, però poi alla fine il carico va tutto l'Italia e anche la Grecia, cioè gli avamposti nel Mediterraneo, no? Del continente europeo. Ne parleremo più tardi, come parleremo naturalmente di molti altri temi. Parleremo dell'attentatore a New York, di questi tentativi di attentati, non sappiamo bene ancora come definirli. Comunque è stato fermato l'uomo che era ricercato, ma sarebbero coinvolte altre persone. Poi ci sono due lavoratori italiani che sono stati rapiti in Libia, la notizia è arrivata circa un'ora fa. Molti altri temi, lo sapete, poi i vostri canali privilegiati per intervenire sui vari argomenti sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure il numero per i messaggi e i WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Poi comincerò a approfondire, come al solito, gli argomenti dopo le 21:15, ma prima di tutto, come sempre, il riassunto della giornata. Libia, rapiti due lavoratori italiani, con loro anche un canadese. Le bombe a New York, è stato fermato l'uomo, l'afgano ricercato. Il presidente americano Barack Obama chiede di non cedere alla paura, promettendo giustizia sarà fatta. L'emergenza immigrazione, Renzi al vertice al Palazzo di Vetro ribadisce, è un problema europeo, ma da Juncker sinora sono venute solo parole. Se si continua così l'Italia farà da sola. Siria, salta la tregua per Damasco, è colpa dei ribelli, ma le opposizioni accusano il regime di Assad, ha violato l'accordo per farlo fallire. Movimento 5 Stelle, Grillo incontra la sindaca Appendino, sindaci straordinari, sottolinea il leader del movimento, abbiate fede, possiamo fare l'impossibile, e la sindaca Raggi dice, facciamo vedere chi siamo. L'ennesimo femminicidio, una donna di 40 anni uccisa in casa a Ravenna, fermato il marito, noto dermatologo, lei aveva chiesto il divorzio. La tredicenne è violentata a Melito, dopo gli 8 arresti per le violenze di anni sulla minorenne ci sono 2 nuovi indagati. L'operaio morto sul lavoro all'Ilva, 12 indagati a Taranto e ultimatum di Emiliano che dice senza sicurezza stop alla produzione. L'ultimo saluto a Ciampi, Benigni al funerale dice è stato come un padre. E poi all'Italia le sigle sindacali confermano lo sciopero del 22 settembre. Partiamo quindi dal rapimento di due lavoratori italiani in Libia. La notizia è stata diffusa inizialmente dall'agenzia di stampa turca Anadolu attraverso una fonte delle autorità della città di Ghat nel sud della Libia, poi confermata anche dalla Farnesina, dal Ministero degli Esteri italiano. I rapiti sono 3 lavoratori in realtà, perché sono 2 italiani e un italo-canadese che lavorano per conto di una società italiana di manutenzione dell'aeroporto di Ghat. E questa società si chiama Conicos e lavora in Libia dal 1982. Secondo quanto si apprende, i lavoratori sono stati portati via da sconosciuti armati. 3 auto hanno affiancato e bloccato il mezzo su cui loro viaggiavano, hanno sparato a un piede dell'autista e hanno costretto i 3 lavoratori a salire con loro. Poi se ne sono andati. Al momento non c'è nessuna rivendicazione di questo rapimento. Comunque man mano vi aggiornerò con le cose, le notizie che vedo. I tentativi adesso di attentati negli Stati Uniti, c'è un primo fermo per gli ordigni esplosivi trovati a Manhattan, non lo sapete, esploso sabato sera provocando 29 feriti, e poi per gli otto ordigni trovati in New Jersey. Si tratta del 28enne ricercato afghano Ahmad Khan Rahami, che sarebbe stato rintracciato dall'FBI grazie alle impronte digitali lasciate sugli ordigni e poi anche grazie a un avvistamento. L'uomo è stato fermato a Linden, nel New Jersey, e ferito dopo uno scontro a fuoco con la polizia. Obama ha lanciato un appello al popolo americano a non lasciarsi vincere dalla paura. Poi però ci collegheremo direttamente con New York per avere altri dettagli. E siamo all'emergenza immigrazione di cui si è discusso oggi, come vi dicevo, in un vertice al Palazzo dell'ONU a New York. Renzi, amareggiato, ha ribadito è un problema europeo, ma da Juncker, il presidente della Commissione europea, finora solo parole. Se si continua così l'Italia farà da sola. E in conferenza stampa, tra le altre cose, Renzi ha detto: i migranti che sono in attesa di ottenere lo status di rifugiati non possono essere lasciati a bighellonare nelle strade, perché questo crea elementi di preoccupazione per la comunità che li ospita. Sentiamo un passaggio di Renzi. La mia impressione è che se l'Europa continua così, noi dovremmo organizzarci in modo autonomo. Questo è l'unico vero elemento di novità che arriva da Bratislava. Cioè, a Bratislava si sono fatte tante parole, ma non siamo stati in grado di dire parole chiare sul tema africano. Questo è il motivo per il quale, con un eufemismo, diciamo, non l'abbiamo presa benissimo. Ma il problema è quello, cioè che alla fine Juncker fa un discorso buono su questi temi, ma poi non vedi i fatti. Tra l'altro credo che questo sia un problema per l'Europa. Vorrei dire che l'Italia farà da sola, l'Italia farà quello che serve in termini di migrazione, in termini di lavoro sui paesi africani d'origine, e mi dispiace perché questa è un'occasione persa per l'Europa. E anche di questo, vi dicevo, parleremo in modo più approfondito tra poco. Ora spostiamoci sulla Siria. Le forze armate siriane hanno proclamato la fine della tregua, accusando i ribelli di aver sabotato l'accordo che aveva fatto scattare il cessate fuoco una settimana fa. Secondo Damasco, i gruppi terroristi non hanno rispettato nessun punto, sono state documentate 300 violazioni. Le opposizioni però accusano a loro volta il regime, dicono ha violato la tregua per farla fallire. Mosca intanto critica ancora gli Stati Uniti per il raid che ha portato alla morte di decine di soldati siriani. Passiamo alla politica italiana, con ancora protagonisti 5 Stelle. Grillo è andato a Torino e difende i sindaci del suo movimento. Andiamo avanti molto bene, sono molto contento, abbiamo messo delle persone veramente straordinarie, quindi abbiate fede, andiamo avanti, gli attacchi ci sono e mi rendono ancora di più orgoglioso. Persone straordinarie che possono rendere possibile l'impossibile. Beppe Grillo difende così i suoi sindaci, Raggi compresa, e sprona gli attivisti in vista della kermesse 5 Stelle del 24 e 25 settembre. Lo fa con un video postato sul suo blog dopo la visita sorpresa alla sindaca di Torino Chiara Appendino, e nello stesso giorno in cui dallo stesso blog il sindaco di Roma dà appuntamento alla festa di Palermo del prossimo fine settimana e attacca: stiamo iniziando a dare fastidio, facciamogli vedere che ci siamo. Ma le grane non mancano per il primo cittadino della capitale. Ancora in alto mare pare la nomina del nuovo assessore al bilancio, il successore di Marcello Minenna. Domani ci sarà una riunione dell'Assemblea Capitolina in cui sono previste le comunicazioni, ma pare improbabile che ci sia l'annuncio ufficiale, mentre dovrebbe arrivare in settimana anche la risposta definitiva da parte del Campidoglio al CONI sulla candidatura di Roma ospite delle Olimpiadi 2024. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E arriva una notizia sull'Italicum, la legge elettorale. Il presidente della Corte Costituzionale, sentito il collegio, ha deciso di rinviare a nuovo ruolo la trattazione, quindi una nuova data, la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai tribunali di Messina e di Torino in merito appunto all'Italicum. Prevista quindi, è stata rimandata l'udienza prevista per il 4 ottobre. E oggi giornata di lutto nazionale per l'esequie di Carlo Azeglio Ciampi, con un addio commosso. L'intera Italia è in lutto per il presidente di tutti, così Monsignor Paglia, che nel giorno del lutto nazionale ha celebrato i funerali di Carlo Azeglio Ciampi a Roma, nella chiesa di San Saturnino. Ma questo è anche il giorno del 70° anniversario di nozze dei Ciampi, una coincidenza che, ha detto Paglia per consolare Donna Franca, cade come una goccia di tenerezza che un poco smorza la crudezza della morte e del distacco. Presenti all'ultimo addio del presidente emerito le massime cariche dello Stato, Mattarella, Grasso, Boldrini, ma anche molte personalità del mondo della politica, tra gli altri Casini, Monti, Bertinotti, Veltroni, Prodi e poi Visco e Draghi. Un grande applauso ha rotto il rigoroso silenzio all'uscita del feretro, prima che venisse trasportato a Livorno, città natale di Ciampi. È come se fosse morto di nuovo mio padre, ha detto commosso Benigni uscendo dalla chiesa. Gli abbiamo davvero voluto bene, ha ricordato Prodi. Come si faceva a non avere affetto per Ciampi, no? Uno che si imponeva sottovoce, no? Prima di prendere ogni decisione, parlava, dialogava, sentiva, faceva i conti. Fuori dalla parrocchia un grande cartello esposto dai cittadini: sei stato l'onore della patria e della famiglia. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso la politica economica. Con le anticipazioni della manovra se ne è discusso all'assemblea di Confindustria Udine. Competitività delle aziende, riattivazione degli investimenti privati e finanza per le imprese sono le carte da giocare per stimolare la crescita. Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. La competitività delle imprese auspica il numero uno degli industriali, parlando all'assemblea di Confindustria Udine, è una delle grandi priorità da affrontare a partire dalla prossima legge di stabilità. Una manovra che al momento oscilla tra 23 e 26 miliardi di euro. La legge di bilancio, replica dall'assemblea di Confindustria Udine il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, sarà un rafforzamento delle misure per la crescita e della capacità industriale del paese. L'impresa oggi ha un ruolo centrale. Il governo intanto continua nella scelta delle tessere che comporranno la manovra 2017 e il viceministro all'economia Enrico Morando annuncia che è allo studio un taglio del cuneo fiscale e contributivo con orizzonte 2018-2019. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto sul fronte del lavoro sono arrivati i dati INPS sui contratti. Nei primi sette mesi del 2016 il saldo positivo per le assunzioni è 76.324, è un dato comunque inferiore dell'83,5% rispetto allo stesso periodo del 2015, quindi dell'anno scorso, ma anche del dato riferito al 2014 quando non c'erano gli sgravi. Siamo alla cronaca con un ennesimo femminicidio per l'omicidio a Ravenna di una donna di 40 anni trovata in casa nello scantinato col cranio fracassato a colpi di bastonate. Giulia Ballestri era il suo nome, è stato fermato il marito Matteo Cagnoni, noto dermatologo più volte apparso in televisione, che ha anche tentato la fuga quando l'hanno cercato i carabinieri. L'uomo, oltre che dell'omicidio aggravato della moglie, deve rispondere anche di occultamento di cadavere. La coppia aveva tre figli, si stava separando, lei aveva chiesto il divorzio. E a questo proposito esce un film nelle sale il 22 settembre, quindi tra pochi giorni, La vita possibile si chiama, di Ivano De Matteo, è la forza delle donne vittime di violenza che cercano un'altra possibilità di vita, è anche molto legato al tema della solidarietà femminile. Nel film ci sono Margherita Bui e Valeria Golino. Non è un film di denuncia, chiaramente, perché è un film sulla ricostruzione, su una possibilità di rivivere. E mi sembra molto bello, però c'è anche sotto qualcosa di una piccola critica alla legge, a quello poco che dà lo Stato a chi ha un problema del genere. Un rapporto bello, nel momento del bisogno c'è una donna che aiuta un'altra donna, soprattutto su un problema che è molto femminile e molto attuale. Margherita Bui, un problema femminile ma molto maschile prima di tutto. In Calabria due nuovi indagati ci sono nel caso delle violenze di gruppo su una ragazzina. Ci sono nuovi sviluppi nel caso della ragazzina 13enne violentata per due anni a Milito di Porto Salvo, nel Reggino. Si aggiungono due nuovi indagati nell'indagine della Procura di Reggio Calabria. Sono Antonio Schimizzi, poliziotto in servizio a Monza e fratello di uno degli arrestati, e Giacomo Iachino, infermiere. Entrambi sono accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata. Salgono così a 9 gli indagati del branco che tra l'estate del 2013 e quella del 2015 avrebbero stuprato, ricattato e costretto al silenzio la 13enne. Quando la ragazzina provava a ribellarsi, i membri del branco la minacciavano di mettere in rete i video e le foto delle violenze. La fine di questo incubo è arrivata solo il 2 settembre scorso, quando i carabinieri di Melito hanno condotto l'operazione ricatto con l'arresto dei primi componenti del branco. Andrea Siravo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche su questa brutta storia poi torneremo. C'è la vicenda dell'operaio morto sul lavoro all'Ilva, 12 sono gli indagati a Taranto al momento, e c'è l'ultimatum anche del presidente della regione Puglia Emiliano, che dice senza sicurezza stop alla produzione dell'Ilva. Altro tema che tratteremo poi nel corso stasera di Effetto Note. Fertility Day, 8 opuscoli per spiegare come proteggere la fertilità maschile e femminile nel contenuto strettamente medico, e un sito web dedicato all'iniziativa. Quindi è pronta la nuova campagna del Fertility Day promossa dal Ministero della Salute, che sostituisce quella, vi ricordate, i cui contenuti erano già stati divulgati ad agosto e hanno suscitato un sacco di polemiche. E poi voglio dare anche questa notizia che sembra quasi futuribile, qualcuno era stato molto criticato che l'aveva vagheggiata anni fa, vi ricordate, credo al Movimento 5 Stelle. L'idea di avere chiavi di casa, documenti di riconoscimento e persino carte d'imbarco impiantate sotto pelle non è più fantascienza. Sono infatti decine di migliaia, secondo una stima riportata dal Wall Street Journal, le persone al mondo che si sono fatte taggare con un dispositivo con applicazioni che possono andare dall'entrata al parcheggio aziendale alla disponibilità di dati medici utili in caso di emergenza. Se li trovano sotto pelle gli impianti denominati Radio Frequency Identification Device, della lunghezza di pochi millimetri, sono iniettati nei tessuti grassi in pochi secondi. Per chiudere il calcio, il campionato ritorna già domani dopo i verdetti della quarta giornata e la sconfitta della Juventus, si riparte dal Napoli capolista. Sliding Doors, un campionato a porte girevoli, la Serie A, almeno dopo l'ultima domenica, in vista del turno infrasettimanale. T'aspetti la Juve schiaccia Sassi, l'Inter in crisi e il Napoli orfano di Higuain. E invece in vetta ecco proprio i partenopei che hanno trovato in Milik il nuovo bomber, i bianconeri invece in panne dopo il KO di San Siro contro un Inter che vince e convince. E De Boer comincia a conquistare critiche e tifosi, come spiega il patron nerazzurro Massimo Moratti. È stato bravo allenatore, bravissimo, e bravissimi i giocatori, Icardi in testa, ma anche tutti gli altri. Tutt'altra aria si respira nella Torino bianconera, con Allegri ora sotto pressione per la difficile gestione, vedi la panchina di Higuain a San Siro, di una rosa obbligata a vincere e che pure resta comunque la grande favorita a farlo ancora. Ma proprio Icardi e soci hanno dimostrato che non c'è niente di più esaltante che ribaltare i finali già scritti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, questo è il riassunto della giornata, tra poco vi aggiorno anche su una delle notizie che vi dicevo. Intanto i messaggi sulla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666. Davide per esempio scrive: migranti, l'Austria ce li manda indietro, la Svizzera fa lo stesso, la Francia pure, nessuno li vuole e poi noi li manteniamo tutti gratis, siamo la pattumiera del mondo. Renzi ha già detto negli anni passati l'Italia farà da sola, quello che sta facendo fa comodo a tutti tranne che agli italiani. Insomma, lo dice poi in un impeto di orgoglio e anche di amarezza, ma è chiaro che deve essere un problema europeo, soltanto che a quanto pare appunto dalle parole ancora non si è passati ai fatti. Vi dicevo dei due italiani operai rapiti in Libia, adesso si apprende dal comando provinciale dei carabinieri quali sono i nomi di questi due italiani. Sono Bruno Cacace, 56 anni, residente a Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo, e Danilo Calonego, 66 anni, della provincia di Belluno. Sono questi due italiani rapiti in Libia. Naturalmente, se i nomi sono stati resi noti, hanno già avvisato le famiglie. Quanto si apprende questo dai carabinieri del comando provinciale di Cuneo, che dopo essere stati contattati dalla Farnesina si sono recati presso la sede della ditta per cui lavorano, la Conicos di Mondovì in provincia che è vicino Cuneo. E quindi man mano insomma che arrivano le notizie ve le darò. Intanto direi di fermarci per aggiornare chi sta viaggiando e poi cominciamo con i temi da approfondire. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme molto velocemente, Roberta Giordano sempre con voi, quindi avete sentito un po' il riassunto, il quadro della giornata, adesso cominciamo invece a entrare nel cuore degli argomenti. I vostri messaggi sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al numero 349-238-6666, che quello lo sapete ormai, per WhatsApp e SMS. Scrive Alessandro da Roma: mi chiedo cosa stiamo a fare in Europa se da soli ci dobbiamo sbrigare la matassa dei profughi. Effettivamente questa non è naturalmente una riflessione peregrina. Allora, vi ricordo quali sono le notizie più importanti. Preso un afghano ricercato negli Stati Uniti, sono state trovate le bombe, è terrorismo internazionale, dice l'FBI. Intanto Obama lancia un appello agli americani: non arrendiamoci alla paura. Rapiti due italiani nel sud della Libia, nessuna rivendicazione per il momento per questo sequestro, sono stati rapiti insieme a un canadese, la Farnesina è al lavoro, i nomi sono stati resi ufficiali poco fa, si tratta di Bruno Cacace e Danilo Calonego, che lavorano per una ditta italiana di Mondovì, vicino Cuneo. Renzi sferza l'Unione Europea sui migranti e la Germania sulle banche, dice o si cambia o faremo da soli. E poi la Consulta che rinvia l'udienza sulla legittimità dell'Italicum. Per quanto riguarda i lavori, dati INPS, più 76.324 nuove assunzioni, contratti stabili in 7 mesi, ma meno 83% rispetto allo stesso periodo del 2015. E poi applausi e bandiere tricolore per l'ultimo addio a Ciampi, funerali privati con le autorità e Benigni che dice: per me è stato un padre. In Siria salta la tregua, Damasco dice che è colpa dei ribelli, invece i ribelli accusano Assad di aver violato l'accordo per farlo fallire. E poi l'ennesimo femminicidio, una donna quarantenne uccisa in casa a Ravenna, ha fermato il marito, noto dermatologo Cagnoni, che è stato anche più volte in televisione. Adesso allora parliamo di Renzi, che avete sentito anche all'inizio, di come ha sferzato effettivamente l'Unione Europea, perché dice dall'Unione Europea finora sul problema migranti abbiamo avuto solo attestati di stima, di solidarietà, tante parole, ma insomma poi alla fine nei fatti concreti continuiamo noi a prenderci il carico dei migranti insieme anche alla Grecia. Sentiamo un passaggio di Renzi che già abbiamo sentito all'inizio. La mia impressione è che se l'Europa continua così noi dovremmo organizzarci in modo autonomo. Questo è l'unico vero elemento di novità che arriva da Bratislava. Cioè a Bratislava si sono fatte tante parole, ma non siamo stati in grado di dire parole chiare sul tema africano. Questo è il motivo per il quale, con un eufemismo, diciamo, non l'abbiamo presa benissimo. Ma il problema è quello, cioè che alla fine Juncker fa un discorso buono su questi temi, ma poi non vedi i fatti. Tra l'altro credo che questo sia un problema per l'Europa. Livia Zancaner, ciao Livia. Buonasera Roberta. In studio Livia, per dire che effettivamente insomma Renzi ha le sue ragioni e sembra che da tutti questi vertici insomma, non esca un ragno dal buco, no? Sì, infatti allora oggi il premier Matteo Renzi in sostanza ha ribadito quello che aveva già detto. Era a New York, no? Dicevamo prima al vertice sull'immigrazione. A New York, sì, praticamente Matteo Renzi ha fatto un punto con la stampa italiana in occasione del summit sui migranti che apre in sostanza l'Assemblea generale dell'ONU, che è la 70ª. Allora Renzi in sostanza ha ribadito quello che aveva già detto venerdì dopo il vertice europeo a Bratislava. In quell'occasione aveva deciso di non partecipare alla conferenza stampa congiunta con Merkel e Hollande proprio per dimostrare il suo disappunto per come erano stati trattati i temi su immigrazione e flessibilità. Oggi quindi Renzi sottolinea, come abbiamo sentito, che la priorità è la questione dei rapporti con l'Africa e che da Bratislava non sono arrivate risposte concrete. Lui dice: bisogna iniziare ad aiutare questi popoli a casa loro e a fare in modo che l'Unione Europea non continui a girare la testa dall'altra parte. Quindi se l'Europa continua a fare così, l'Italia farà da sola e questo diventa un problema per l'Unione Europea, perché l'Italia è in grado di farlo da sola. E ancora, dice Premier, ho parlato chiaro senza mandarla a dire dietro, altrimenti i vertici diventano solo parate scenografiche, io invece ho il dovere di difendere l'Italia. Il Presidente del Consiglio ha poi parlato anche di flessibilità di conti pubblici e in particolare di Casa Italia, cioè il piano per la prevenzione sismica. Dopo quello in particolare che è successo questo agosto nel centro Italia, no? Sì, e all'Europa ha ribadito ancora una volta: ciò che serve per le nostre scuole sarà fuori dalle spese contabilizzate sul patto di stabilità. Dice questo proprio nel giorno in cui, in un'intervista alla stampa, il governatore della banca centrale tedesca Weidmann spiega che l'Italia ha già abusato della flessibilità, citando soprattutto il debito elevato e il problema dei crediti deteriorati. Quindi la risposta di Renzi arriva sempre da New York e dice: a Weidmann va tutta la mia solidarietà perché deve occuparsi di un compito ingrato, cioè quello di affrontare la grande questione delle banche tedesche. Quindi dice anche le banche tedesche in effetti hanno i loro problemi. Insomma, un po' una giornata di attriti, diciamo, di difficoltà oggettive, no? Quindi da critiche da quella parte, lui risponde con ironia e poi sull'immigrazione chiaramente, insomma, è sotto gli occhi di tutti, no? Assolutamente sì, e poi alla fine lui fa l'ennesima stoccata alla Germania e dice il surplus è troppo elevato e questo è un elemento di preoccupazione. Grazie Livia Zancaner. Ciao. Grazie Livia. A voi. Ciao. E restiamo a New York, ma per questioni invece legate, certo, al terrorismo internazionale, ma legate a quello che sta succedendo lì negli Stati Uniti da sabato. Ne parliamo con il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao. Per gli ordigni esplosivi, no, trovati a Manhattan, uno esploso sabato e ha provocato 29 feriti, per fortuna solo uno grave, e per gli 8 trovati in New Jersey, oggi c'è stato questo primo arresto, era scattata la caccia all'uomo, si trattava di questo ricercato afghano Ahmad Khan Rami, di 28 anni, afghano naturalizzato americano, è stato ferito in una sparatoria e arrestato. Però Marco, sembra che ci siano coinvolte altre persone. Ma ancora, diciamo, le indagini sono in corso. Non è chiaro se abbia agito da solo. Al momento ufficialmente le autorità non sono a caccia di ulteriori sospetti, però le indagini proseguono e quindi, diciamo, le possibili ramificazioni sono tutte da verificare. Possiamo anche ricordare che inizialmente, appunto, le autorità erano state molto caute anche solo nel definire la matrice iniziale dell'attentato, cioè nel far sapere nel uccidere, insomma, nell'annunciare che era stata una bomba e nel verificare chi poteva essere, diciamo, il sospetto. Quindi, diciamo, le autorità hanno scelto una strada di cautela che non esclude ulteriori sviluppi, anche se, appunto, come diceva al momento, non ci sono ufficialmente ulteriori sospetti. Anche se farei sentire Obama, il presidente americano Obama, che ha lanciato l'appello al popolo americano, quindi in pratica parlando di terrorismo e del fatto che non bisogna farsi frenare, cambiare la propria vita quotidiana, le proprie abitudini da quello che vogliono i terroristi. Sentiamo. By showing the entire world that as Americans we do not and never will give in to fear, that's going to be the most important ingredient in us defeating those who would carry out terrorist acts against us. Questo Obama, no, Marco, che ha detto, naturalmente, in questi frangenti, quello che giustamente ripetono i presidenti americani e non solo loro. Sì, direi che Obama ha cercato di lanciare un appello contro la paura, contro quella che ha identificato come forse la peggior minaccia, diciamo, no, del peggior effetto che può avere così lo spettro del terrorismo, cioè quello di creare spirali di paura tra la gente e di mettere in discussione gli stessi valori su cui è fondata la democrazia americana. Marco, tra l'altro ricordiamo che Obama parlava da New York, dove abbiamo detto che domani ci si aprirà l'Assemblea delle Nazioni Unite, dell'ONU, quindi in una New York blindata per questioni di sicurezza con tutti i leader del mondo che devono arrivare, e poi si innesta questa vicenda, irrompe, no, in modo prepotente nella campagna elettorale. Le presidenziali sono praticamente tra due mesi a questo punto, e vari attacchi reciproci tra Hillary Clinton e Donald Trump oggi sono stati, no? Sì, assolutamente si inserisce questa vicenda in un momento delicato, diciamo, sotto il profilo internazionale, come per il tu con Obama che interviene domani all'Assemblea Generale dell'ONU, un'Assemblea Generale dell'ONU che tra i temi forti ha proprio il problema dei rifugiati, il problema delle tensioni globali, delle tensioni in Medio Oriente, della guerra in Siria, della lotta, quindi, diciamo, a ISIS. Dall'altra, in una campagna elettorale all'arma bianca, infatti anche su questo tema lo scontro è stato aperto oggi tra Hillary Clinton e tra Donald Trump. Una Hillary Clinton che ha rivendicato la necessità di vigilanza, ma accompagnata da ragionevolezza, accompagnata da un atteggiamento di tolleranza e di apertura verso la comunità musulmana americana, e invece da un Trump che ha ricordato e ha rivendicato la propria politica di chiusura all'immigrazione, di messa al bando degli immigrati dai paesi a rischio, in particolare dai paesi di fede islamica, e che appunto ha invocato una svolta a favore di legge e ordine, denunciando come deboli sul terrorismo e sulla questione della sicurezza nazionale sia Hillary Clinton che Barack Obama. Quindi vediamo adesso come procedono le indagini, come procede questa vicenda, appunto un momento delicato sia perché domani si apre l'Assemblea Generale dell'ONU, come ci ricordava Marco Valsani, e poi perché sono vicine le elezioni presidenziali, no, a novembre. Grazie Marco Valsani da New York. Ciao Marco. Grazie a voi. Ciao. Intanto guardo ancora i vostri messaggi sulla questione migranti, soprattutto per esempio dice questo ascoltatore Filippo da Milano, 44 anni, dice anche l'età, il problema è che Renzi ha creduto vanamente alle promesse europee di una redistribuzione di migranti che nessuno vuole, tra parentesi ha ragione, dice che chi può, come i paesi del nord più distanti, fanno di tutto e fanno bene, dice, per non avere sul proprio territorio il fatto che gli altri fanno giustamente i propri interessi, e Renzi è rimasto con il cerino in mano, giustamente i propri interessi, però allora, come si dice, appunto, inutile che si faccia parte di un'Unione Europea che poi su questi temi si divide e agisce in modo egoistico e individualistico, no? Poi dice un altro ascoltatore, quando si trovano a ventotene Merkel e Hollande sono due santi, a Bratislava sono invece due cattivoni, decidetevi e smettete di fare propaganda, ci pensa già la RAI con i soldi nostri. Ma semplicemente stiamo raccontando i fatti così come sono, avete sentito anche le voci, le dichiarazioni, insomma, quello che è. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ci prendiamo una piccola pausa e ritorno a momenti. Tecnologie logistiche di magazzino Modulblock. Avanti anni luce. vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Quindi riassunto della giornata, abbiamo cominciato a approfondire diversi argomenti. Adesso tra poco, se non avete acceso puntualmente alle 21, vi ricordo quali sono i titoli più importanti e poi continuiamo con l'approfondire gli altri temi. I vostri messaggi sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure i messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Per esempio questo ascoltatore, anzi Ilaria, che ricorda quello che è successo a Roma di un uomo, un 35enne, che ha detto a due giovinastri evidentemente di smettere di fumare perché era contro la legge, ed è adesso ferito gravemente perché lo hanno picchiato con pugni e calci. Dice: a Roma siamo arrivati al punto di finire in coma prendendo la metro solo per aver protestato contro le violazioni alla legge. Mo dice sempre contro il MITE che protesta contro le prevaricazioni, nessuno che lo difenda perché abbiamo paura, perché le becchiamo pure noi e poi si rischia di arrivare tardi al lavoro, precario. Dice: che città di merda Roma è diventata, che gentaccia siamo. Insomma, tutti in qualche modo siamo più indifferenti, almeno oltre a scappare come hanno fatto tutti lì dal vagone della metropolitana, almeno chiamare immediatamente i soccorsi, le forze dell'ordine, almeno quello. Poi erano in due questi uomini che lo picchiavano, era pieno il vagone, se si fossero messi tutti addosso, solo che il coordinarsi e il decidere tutti insieme, no, di agire. Ecco, queste sono le questioni. Pensate, appunto, anche in Unione Europea, visto che questo era uno dei temi di oggi, non ci si riesce a mettere d'accordo per questioni egoistiche e si scarica un po' tutto sull'Italia e sulla Grecia per quanto riguarda l'immigrazione. Scrive Luigi da Modena: perché non facciamo decidere chi è profugo e chi è no da dei professionisti anziché dai giudici, un po' come i giudici di pace? Una selezione rapida sarebbe utile per finanze pubbliche, soprattutto per i profughi autentici. Vi ricordo intanto quali sono le notizie principali della giornata. Libia: rapiti due lavoratori italiani, con loro anche un canadese. Le bombe a New York: è stato arrestato l'afgano ricercato. Il presidente americano Barack Obama chiede di non cedere alla paura, promettendo giustizia sarà fatta. L'emergenza immigrazione: Renzi al vertice del Palazzo di Vetro ribadisce è un problema europeo, ma da Juncker sinora sono venute solo parole. Se si continua così l'Italia farà da sola. Siria: salta la tregua, per Damasco è colpa dei ribelli, ma le opposizioni accusano il regime di Assad e dicono ha violato l'accordo per farlo fallire. Movimento 5 Stelle: Grillo incontra la sindaca di Torino Appendino. Sindaci straordinari, dice il leader del movimento, abbiate fede, possiamo fare l'impossibile. E poi l'ennesimo femminicidio, questa volta a Ravenna, una donna di 40 anni uccisa in casa, fermato il marito, noto dermatologo, lei aveva chiesto il divorzio. La 13enne violentata a Melito: dopo gli 8 arresti per violenza di anni sulla minorenne ci sono 2 nuovi indagati, tra poco ne parleremo. Poi l'operaio morto sul lavoro all'Ilva: 12 sono gli indagati a Taranto e c'è l'ultimatum di Emiliano che dice senza sicurezza stop alla produzione. L'ultimo saluto a Ciampi oggi, funerali, Benigni ha detto è stato come un padre. Poi all'Italia: le sigle sindacali confermano lo sciopero del 22 settembre. Vi dicevo quindi l'orribile, tristissima vicenda della tredicenne di Melito, Porto Salvo, vicino a Vibo Valentia, in Calabria, sistematicamente violentata dal branco per anni, violentata e ricattata da 7 più uomini molto più grandi di lei, anni di ricatti, di abusi che l'hanno indotta a quella che il giudice che sta istruendo questa inchiesta definisce recalcitrante rassegnazione da parte della ragazzina, che ha confidato insomma di non avere più stima di se stessa, di giudicarsi molto male e insomma rassegnata a questa quotidiana violenza. Una vicenda orribile che ha portato all'arresto di 8 persone e poi oggi ci sono 2 nuovi indagati. Vi ricordate che la madre aveva scoperto per caso di queste violenze di anni perché aveva letto la brutta copia di un tema, e però poi a sua volta aveva cercato di nascondere, diceva, per non fare brutta figura nel piccolo paese. In questo tema tra l'altro la ragazzina rimproverava i genitori di averla lasciata sola perché ognuno troppo preso dai propri impegni a rincorrere il proprio nuovo compagno o compagna, insomma i suoi genitori. Nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, vi dicevo, sono stati aggiunti altri 2 nuovi indagati, ma ci racconta meglio Alessia Candito. Che scrive per il Corriere della Calabria e per Repubblica. Alessia, quindi io ho riassunto per quanto potevo questa vicenda. Ciao. Sì, ci sono due nuovi indagati. In realtà le loro posizioni erano già emerse all'epoca dell'arresto dei primi otto, ma nei loro confronti non era stato possibile chiedere l'arresto perché gli episodi erano sì di un rapporto sessuale con una minorenne, ma non c'era violenza di gruppo e non erano accaduti prima che la ragazza compisse 14 anni. Quindi non c'erano i presupposti di legge per l'arresto. Tra l'altro uno di questi due nuovi è un poliziotto di Monza. È un poliziotto e la sua è sicuramente la posizione più grave. Non solo perché ha avuto un rapporto con questa ragazzina che il GIP dice sì, lei afferma di aver avuto un rapporto consensuale, ma la sua volontà era stata coartata da anni di violenza. Questa ragazzina si sentiva una cosa, si sentiva inutile, diceva, lei dice di sé, mi facevo schifo, sentivo di non valere niente, per cui non mi importava niente di andare con chiunque. E poi la ricattavano, no, Alessia, perché dicevano se tu vai a denunciare noi mettiamo in rete i filmini, li diffondiamo e sappiamo che cosa poi succede. Sì, questo era il ricatto iniziale. Queste, ad esempio, gli episodi di i rapporti avuti con questi due uomini, con il poliziotto e un'infermiera, che sono due persone di circa 30 anni entrambe, e lei afferma siano rapporti consensuali, ma il GIP dice non possono essere rapporti consensuali perché la volontà di questa ragazzina è stata piegata da anni di abusi, per cui la minore era in condizioni di inferiorità fisica e psichica. Il poliziotto ne era a conoscenza, dice il GIP, così come è assolutamente plausibile pensare che fosse a conoscenza degli abusi che il fratello e il branco di suoi amici avevano perpetrato sulla ragazzina per anni, tant'è che quando il fratello Davide Schinizzi inizia ad avere paura di essere arrestato, gli consiglia stai zitto, non parlare, dici non, di non ricordare nulla, dici di aver avuto tante ragazze per cui non puoi ricordare di essere stato o non essere stato con lei. Quindi questo lo diceva in un'intercettazione questo poliziotto al fratello, che era coinvolto anche fratello, lui, il fratello, sì, insomma, di stare zitto e di far finta di non ricordarsi, che ne aveva avute talmente certo, tante. C'è da dire che nel momento in cui questo episodio, queste circostanze sono emerse, il poliziotto è stato immediatamente sospeso dal servizio e sottoposto a procedimento disciplinare. Oggi arriva anche l'indagine penale. Entrambi insieme a Iachino, l'altro nuovo indagato, si dovranno presentare all'incidente probatorio, che è un passaggio tecnico che serve per rendere utilizzabili le dichiarazioni della ragazzina in sede processuale. Senti Alessia, quindi al momento quanti sono gli arrestati e quelli invece solo indagati per il momento? Adesso ci sono 7 arrestati maggiorenni, un arrestato in comunità per minori perché minorenne all'epoca dei fatti, oggi 18enne, e un altro ragazzo che è sottoposto all'obbligo di firma. Senti, invece per quanto adesso quanti anni ha la ragazza? La ragazzina ha circa 16 anni. 16 anni, quindi ancora minorenne. Per lei, di lei si sta occupando il Tribunale dei Minori, che ha aperto un procedimento per valutare se ci sono le condizioni perché lei rimanga a Melito nel paese in cui è nata, in cui è cresciuta ed è rimasta fino adesso, e che dovrà vagliare anche la potestà genitoriale del padre e della madre. Perché come ricordavo, i genitori non hanno denunciato anche quando i genitori sono separati, hanno entrambi dei nuovi compagni. Certo, è anche il giudice nel provvedimento con cui ha discusso l'arresto dei primi otto arrestati, lo sottolinea, c'è stata una ritrosia poco spiegabile della madre alla denuncia delle violenze subite dalla figlia. C'è un'intercettazione che fa molta impressione, però dà il metro del clima che si respirava in quella casa. La madre parla con un conoscente, con un familiare, e dice: ci devono avvertire quando vengono ad arrestarli, non è che si possono presentare qui con le sirene, perché tanto non cambia niente, non gli faranno niente, se paga qualcuno paga chi ha meno soldi. Questo rivela una sfiducia nella giustizia, nello Stato, nella possibilità anche di avere una vita dignitosa dico, era pieno dei propri diritti, che fa pensare. Certo, è una storia tristissima, anche appunto poi in questi risvolti. Grazie Alessia Candido. Grazie a voi. Grazie, del Corriere della Calabria, e scrive per Repubblica. Guardavo ancora i vostri messaggi, c'è chi scrive tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, basta con questo qualunquismo, non è buon giornalismo sostenere che tutto il carico dell'immigrazione cada su Italia e Grecia. Merkel ha perso due elezioni per aver aperto le porte agli immigrati. Sì, infatti la cancelliera ha aperto a circa 1 milione, forzando un po' la mano nel suo paese, a 1 milione di immigrati, per lo più dalla Siria, per lo più anche, diciamo, del ceto medio di siriani, anche molti laureati, e, insomma, classe media, che tra l'altro è completamente quasi scomparsa in Siria. È vero che Merkel adesso sta pagando lo scotto, avete sentito delle elezioni regionali già nei giorni scorsi, che ha perso in alcuni Länder e adesso anche a Berlino, e lei stessa pare abbia detto, vedevo dalle ultime agenzie, adesso però anche su questo cambierò politica. Quindi vedete che quanto è difficile, quanto è enorme questo problema. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, viabilità e poi altri temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi, dice un ascoltatore. Massimo, sull'aggressione nella metro di Roma, molta cronaca è creata dall'uso diffuso e smodato di coca, ma nessuno più parla di questa droga da debellare perché è causa di molta violenza. Beh, complicato debellarla, tra l'altro Massimo, non c'è bisogno, è vero, molti sono cocainomani, ma non c'è bisogno di avere la coca per essere violenti, molti lo sono così gratuitamente, con segno di arroganza, di prevaricazione, mi sembra che sia abbastanza dilagante. E poi invece un aggiornamento sui due italiani rapiti in Libia, il presidente del Consiglio Matteo Renzi a New York, lo sapete, per l'Assemblea Generale dell'ONU di cui abbiamo appena parlato, segue direttamente la vicenda degli italiani sequestrati in Libia, i due lavoratori. Il premier, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, è in continuo contatto in queste ore col ministro degli esteri Paolo Gentiloni e l'autorità delegata ai servizi, il sottosegretario Marco Minniti. Questo è l'aggiornamento. Poi, per quanto riguarda le altre notizie, è stato preso il 28enne afghano a New York, sono state trovate le sue impronte digitali sulle bombe, sugli ordigni, di cui uno è esploso sabato, gli altri sono stati trovati a New York e nel New Jersey, e la polizia americana teme una cellula attiva terroristica negli Stati Uniti. Obama intanto dice: non ci arrendiamo alla paura. E poi, oltre a due rapiti in Libia, Renzi che sferza l'Unione Europea sui migranti e anche la Germania sulle banche, dice: o si cambia o faremo da soli. E poi la consulta che rinvia l'udienza sulla legittimità dell'Italicum, che doveva tenersi il 4 ottobre. Lavoro, più 76.324 contratti stabili in 7 mesi, però sono il meno 83% rispetto allo stesso periodo del 2015. E adesso parliamo dell'appuntamento con Youson, l'appuntamento europeo, ed è un tema particolare. L'Europa che spara, non che spara nel senso che dice solo parole e sciocchezze sull'immigrazione e poi non fa nulla, ma l'Europa che si arma. Il problema delle armi da fuoco, che non è troppo dissimile a volte da quello degli Stati Uniti. Sentiamo. Youson, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi apriamo il dossier armi da fuoco. Anche l'Europa, come gli Stati Uniti, ha un problema con le armi da fuoco. Traffico illegale, atti terroristici, facilità di acquisto e difficoltà di controllo sono gli aspetti più problematici. Nessuno sa con certezza quante siano le armi illegali nel continente europeo. Uno studio commissionato dall'Unione Europea ammette l'inesistenza di un dato sicuro. Su circa 81 milioni di armi presenti, pari a 15 armi ogni 100 abitanti, 67 milioni non sono registrate e sono detenute illegalmente. Ogni anno ne vengono sequestrate 81.000, cioè l'1% del totale. Ma se è molto difficile stimare la quantità delle armi in circolazione, non lo è altrettanto contare le vittime. Dal 2000 al 2012 in Europa sono morte per colpi di arma da fuoco almeno 81.556 persone. Tra le misure messe in campo per contenere i decessi c'è per esempio la proibizione di custodire in casa le armi per uso professionale e il divieto di concessione a soggetti con precedenti penali o senza una stabilità psicofisica accertata. Sull'onda degli attacchi perché a Parigi e Bruxelles il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una bozza che intende modificare la direttiva sulle armi al fine di regolamentare ulteriormente la circolazione di armi da fuoco nell'Unione. Alcune delle misure che potrebbero diventare legge prevedono ad esempio una maggiore tracciabilità delle armi sul territorio europeo e la proibizione di alcuni tipi di caricatori e armi semiautomatiche. Gli eurodeputati stanno quindi cercando di trovare un compromesso per impedire l'accesso alle armi ai terroristi e garantire a collezionisti e cacciatori i propri diritti. Per capire come, ne abbiamo parlato con l'eurodeputata britannica dei conservatori Vicky Ford. Esistono leggi comuni europee in materia che risalgono agli anni 90, con un problema in particolare riguardante le armi acustiche, ovvero armi cariche, in teoria convertibili solo in armi a salve, ma poi riconvertite e utilizzate negli attacchi a Charlie Hebdo. Una volta trasformate in armi a salve, non sono soggette a legge né a permessi. Abbiamo inserito questo punto: non si potranno convertire a salve per non essere soggette alla legge. Rimarranno regolamentate. Al vaglio del Parlamento europeo vi sono controlli più severi su musei e collezionisti, sulla vendita di armi online e sul contrassegno di parti. L'obiettivo è limitare la capacità di terroristi e criminali di ricostruire armi disattivate e spedirle oltre confine. Abbiamo un piano di tracciamento a livello nazionale, ma quando un'arma lascia un paese UE per arrivare in un altro paese, la tracciabilità si interrompe e questo favorisce i traffici illeciti. Questo dunque potrà essere uno strumento efficace per contrastare il terrorismo? Serve anche altro per combattere il terrorismo. Ciò garantisce la detenzione legale di armi legali in Europa. Abbiamo eliminato le scappatoie legislative sfruttate dai terroristi. È necessario però altro lavoro che esula dal potere di questa commissione per fermare l'uso illegale delle armi da fuoco, ma è un'altra questione. Il problema dell'Europa con le armi da fuoco è tutt'altro che risolto. Youzone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Vedo molti vostri messaggi, ma il tempo corre, devo subito passare al prossimo tema, che è quello della morte dell'operaio all'Ilva sabato in un incidente sul lavoro. 12 sono gli indagati per il momento e c'è l'ultimatum del governatore della Puglia Emiliano, che avverte, dice, la pazienza della regione è finita e chiederà la revoca della facoltà assegnata ai commissari di far funzionare l'Ilva di Taranto se non si passa subito a un processo di ambientalizzazione, quindi da un punto di vista della sostenibilità ambientale e anche la messa in sicurezza della fabbrica. Domenico Palmiotti, capo della redazione di Taranto della Gazzetta del Mezzogiorno, ci racconta quali sono gli ultimi passi, Domenico, se c'è l'inchiesta, e poi Emiliano che effettivamente lancia questa sfida al governo e dice si decide, si mettono le cose in sicurezza e si fa qualcosa concretamente oppure fermo la produzione. Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. Sì, come dicevi tu, partiamo dall'inchiesta giudiziaria. Ci sono 12 indagati. Gli indagati sono rappresentanti dell'Ilva come azienda committente e della Steel Service come azienda esecutrice del lavoro. Il magistrato Giovanna Canarile ipotizza come reati cooperazione in omicidio colposo più violazione delle norme sulla sicurezza e sulle prescrizioni antinfortunistiche. Ovviamente l'indagine adesso farà il suo corso, in parallelo c'è anche una perizia che la procura ha affidato ad un docente del Politecnico di Torino. C'è un punto particolare, si indaga ovviamente sulle presunte violazioni, sulle presunte inefficienze, però c'è un punto che la procura vuole chiarire: il nastro trasportatore dell'Ilva su cui stava lavorando Giacomo Campo, 25enne, che è morto sabato, presentava uno squarcio longitudinale di circa 200 metri e il procuratore in alcune dichiarazioni, il procuratore di Taranto Capristo, in alcune dichiarazioni che ha fatto questa sera, lascia intendere anche che non è esclusa la pista di un eventuale sabotaggio, qualche manomissione, perché dice ci sono dei segnali preoccupanti, dice Capristo, che giungono al mio ufficio dall'interno e dall'esterno dell'Ilva e che vedono protagoniste forze soggette che probabilmente cercano di contrastare questo disegno di ambientalizzazione che è già così difficile, che è già così problematico. Brutta storia anche questa. Grazie Domenico Palmiotti, grazie, avremo modo di continuare a parlare dell'Ilva prossimamente. Intanto ci dobbiamo fermare, poi brevi aggiornamenti alle 22.